Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Quest'oggi l'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano ha presentato l'Energy Efficiency Report, il rapporto sull'efficienza energetica. Una fotografia della situazione attuale, del potenziale di efficientamento del paese e soprattutto un'analisi che, entrando nel merito tecnologico delle varie alternative disponibili, ne valuta la sostenibilità economica e definisce anche dei criteri precisi per riequilibrare l'attuale sistema di incentivi che, come abbiamo denunciato tante volte qui a Mr. Kilowatt, è sbilanciato e non tiene conto del rapporto costi-benefici delle varie alternative sul tavolo. Una situazione a cui evidentemente bisogna cercare di porre rimedio. Ne parliamo con il professor Vittorio Chiesa del Politecnico di Milano, che è direttore proprio dell'Energy Strategy Group. Buonasera Chiesa. Buonasera a tutti. Allora, Chiesa, intanto diciamo una cosa: voi fate appunto una fotografia abbastanza generale della situazione del risparmio energetico in Italia, fate anche una fotografia della situazione intricatissima della normativa in Italia, però poi a un certo punto vi focalizzate sul comparto abitativo, cioè voi dite è lì che bisogna concentrare lo sforzo. Perché il comparto abitativo? Ma il comparto abitativo perché di fatto, sia a livello europeo sia a maggior ragione a livello italiano, è di fatto quello che assorbe più consumi. Quindi noi abbiamo, che per esempio in Italia circa il 38-40% dei consumi è ascrivibile a questo tipo di comparto, e quindi lì sicuramente bisogna insistere. Questo vale anche a livello europeo, tant'è che l'ultima direttiva europea insiste sul fatto che il parco edilizio rappresenti l'asse su cui, diciamo, concentrare i propri sforzi. Quindi è solo una questione di dimensioni del comparto e anche per alcune caratteristiche intrinseche, volevo capire, ecco, di questo comparto. Beh, diciamo, come peso sui consumi e per il fatto che poi il parco edilizio, in particolare quello italiano, se comparato al resto d'Europa, è molto vecchio, è in larga parte realizzato prima che sia entrato in vigore qualsiasi tipo di normativa o criterio di produzione, natura energetica, e quindi evidentemente non tiene conto di questo tipo di logiche. Senta, la parte più innovativa del rapporto riguarda proprio una classificazione in tre categorie delle tecnologie per l'efficienza energetica. Ce ne vuole parlare? Sì, noi diciamo abbiamo proprio concentrato lo sforzo su questo, cioè cercare di fare un'analisi costi-benefici delle diverse soluzioni tecnologiche che vengono normalmente ricondotte al vasto mondo dell'efficienza energetica. Faccio riferimento a soluzioni impiantistiche, illuminazione, elettrodomestici, produzione efficiente di energia termica, building automation, e anche soluzioni strutturali, quindi tipicamente chiusure vetrate, isolamenti, cappotti, superfici opache. Quello che emerge di fatto è che le tecnologie possono essere suddivise in tre tipologie, tre categorie: quelle che di fatto sono convenienti sia in edifici nuovi sia in edifici esistenti, anche in assenza di incentivi, faccio riferimento all'illuminazione, ma anche a caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie a biomassa, che grazie al loro potenziale di risparmio rendono conveniente l'investimento in ogni condizione. Ecco, già c'è un dato sorprendente, cioè le pompe di calore, per esempio, che sono una, diciamo, delle tecnologie comunque più costose, complesse, è già conveniente di per sé, non servono incentivi. Proprio grazie al risparmio e agli elevati rendimenti, di fatto possono essere convenienti anche in assenza di supporti finanziari. D'accordo. È proprio così. Poi diciamo una seconda categoria rappresentata da quelle soluzioni, faccio riferimento agli elettrodomestici del freddo, soprattutto la building automation e le chiusure vetrate, che sono convenienti solo laddove siano accompagnate alla realizzazione di edifici nuovi, quindi la ristrutturazione invece evidentemente le porta nell'area della non convenienza. Cioè se uno ha un doppio vetro normale, diciamo non particolarmente raffinato, efficiente, è meglio che se lo tenga, lei sta dicendo. Esattamente, cioè in assenza di supporti di agevolazioni evidentemente questo non rende conveniente la sostituzione. Se invece è una finestra coi buchi è meglio cambiarla, insomma, no? Esattamente. Mentre c'è una terza categoria a cui sono riconducibili tipicamente la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma anche il solare termico, gli elettrodomestici del lavaggio, eccetera, che non hanno convenienza in nessun ambito in assenza di incentivazione. Quindi queste richiedono tassativamente un incentivo perché il privato, piuttosto che diciamo l'operatore, decida di adottarle. Dunque tutte queste indicazioni sono già indicazioni molto chiare, precise per l'utente finale. queste stesse indicazioni come dovrebbero essere utilizzate dal decisore politico che definisce il sistema degli incentivi all'efficienza energetica? Che conclusioni dovrebbe trarne? Beh, il decisore sostanzialmente dovrebbe indirizzare lo sforzo di incentivazione a quelle tecnologie che esigono un supporto, un'agevolazione per poter essere adottate, o anche quelle, faccio riferimento alle pompe di calore, che hanno comunque bisogno di una maggior penetrazione e diffusione sul mercato, tralasciando invece quelle soluzioni elementari come la sostituzione delle lampadine, che si ripaga da sé e non ha una caratteristica di natura strutturale. Quindi insomma si tratta di fare un riequilibrio del sistema degli incentivi adattandoli alle singole tecnologie, almeno dei capitoli principali. Definire delle categorie diverse e quindi differenziare poi l'agevolazione sulla base delle soluzioni tecnologiche varie disponibili. Senta, complessivamente, abbiamo pochi secondi, quant'è il potenziale di risparmio del comparto abitativo? Noi abbiamo stimato che di fatto, anche comprendendo gli interventi già avvenuti, al 2020 ci sia un risparmio misurabile in oltre 20 milioni di TEP, di tonnellate equivalenti su di petrolio. Su 130-140 che ne consuma l'Italia in un anno. Sì, giusto? Esatto. Quindi significa, se noi consideriamo che stiamo ragionando però solo sul residenziale, che certo, più o meno è poco meno del 40% dei consumi, significa poter abbattere i consumi del 33-40%. Dentro questo comparto. Sono tutti soldi che restano in tasca alle famiglie italiane. Grazie Vittorio Chiesa. Grazie a voi. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani. Buona serata.